È come se non sapessi nemmeno da dove iniziare oggi perché la lucidità ancora non ce l'ho e non ce l'abbiamo perché quello che è successo è inaccettabile e ci lascia anche in un certo senso sconcertati perché abbiamo perso un amico e non ci sono parole per descrivere appunto quello che stiamo provando. Intanto, innanzitutto, rivolgo un abbraccio a tutti i ragazzi che sono rimasti coinvolti nell'incidente, a chi è rimasto ferito, a chi anche è rimasto illeso, ma comunque rimarrà traumatizzato da questo evento, alla mamma di Matteo che rimane da sola. E vorrei pure dire che chi invece ha speso delle parole. E parlo di Laura Pausini o Jovanotti, avrebbe fatto bene a stare in silenzio perché tante volte davanti al lutto il silenzio è d'oro e loro questa cosa non la sanno. Hanno detto un sacco di cose che si sarebbero potuti risparmiare e avremmo preferito che non avessero speso delle parole ipocrite e che ci lasciano ancora. Generano anche una rabbia maggiore rispetto appunto al dolore che stiamo provando in questo momento per la perdita di un nostro amico. E per quanto riguarda un'analisi un po' più semilucida di quello che è successo, possiamo dire che rispetto all'incidente di Trieste, qua è successo, sono due dinamiche in realtà differenti. Prima Luciano diceva contesti simili, sì. Verissimo, però sono due cose differenti perché da una parte a Trieste ha collassato una struttura e è morto un ragazzo di 20 anni che era la terza chiamata di lavoro e che diciamo era anche abbastanza inconsapevole di quello che stava facendo. E invece qui la struttura a sentire chi l'ha montata era solida. E invece il pavimento del palazzetto di Reggio Calabria non lo era affatto. E è morto Matteo, che era una persona estremamente competente, una brava persona. E noi pensiamo che in nessuno dei due casi si possa attribuire la colpa di quanto avvenuto a un errore umano di chi lavorava lì, ma l'errore umano sta da altre parti. E la responsabilità va individuata. Chi commissiona questi lavori abnormi e chi decide come si devono fare, che non sono di certo gli operai che stanno lavorando lì, che si ritrovano a fare quello che devono fare, che gli viene richiesto e al quale non si può dire no. E in questo caso la responsabilità è direttamente del prefetto di Reggio Calabria e del sindaco di Reggio Calabria che hanno firmato. Per dire che andava bene che si faceva questa cosa in quel posto, che anche le persone stesse che frequentano la nostra assemblea sapevano che, non, che sono andate là a lavorare, sapevano che quel posto non era un posto sicuro. E questo è un problema perché adesso stiamo pagando con la vita delle persone anche un nuovo modo di fare lo show, che è sempre più spettacolare, sempre più abnorme. E non è un caso che fino adesso ci aveva detto bene che nonostante situazioni surreali in cui ci eravamo trovati nel montaggio dei grossi palchi, negli stadi o nei palazzetti, fino adesso bene o male non era successo niente. Come mai negli ultimi 3 mesi sono morte già due persone? Evidentemente perché c'è un cambio in atto, che è anche un cambio di tecnologia, di strutture che vengono montate in tempi strettissimi, che sono gli stessi di prima, se non anche più stretti, e in posti completamente inadeguati all'occorrenza. Questo perché? Perché affittare un palazzetto o uno stadio costa un sacco di soldi, e quindi per meno tempo uno lo affitta e meno spende per fare una cosa del genere. Peccato che però quello che vogliono fare nell'arco di una notte e una mattina è un qualcosa di abnorme, perché a questo punto mi rivolgo anche al pubblico dei concerti. Cioè, ma nessuno si chiede come si fa a fare certe cose che vengono realizzate. Nessuno si chiede com'è possibile che queste cose vengano realizzate nell'arco di un tempo così breve e spariscano dopo una notte di smontaggio. E noi lo sappiamo come funziona, perché ci lavoriamo e sappiamo, siamo anche venuti qua in radio dopo quello che era successo a Trieste, eravamo forse più lucidamente, perché la sensibilità verso la morte di un ragazzo che non conoscevamo già ci aveva spinto a incontrarci, a scrivere un comunicato e a denunciare una situazione, e anche a cominciare a incontrarci per parlare al di fuori del lavoro, cosa che non era magari mai avvenuta prima. E quindi magari abbiamo avuto una lucidità maggiore nel esprimere quali sono per noi le cause oggettive non solo dell'incidente, ma dei problemi che noi ci troviamo ad affrontare quotidianamente quando ci troviamo coinvolti nella realizzazione di queste opere mastodontiche, ovvero il fatto che si lavora 12, 16, 20 ore di fila, in pochi, sempre in meno. Ultimamente la manodopera, quella di manovalanza, viene presa anche, diciamo, molto random, tra persone straniere che nemmeno parlano la lingua, ma questo non perché per me ci sia differenza tra chi è di un posto o di un altro, ovviamente, ma perché comunque quelle persone purtroppo costano meno e quindi conviene prenderle a chi organizza il lavoro. C'è una tendenza al voler fare delle cose sempre più grosse, però spendendo sempre meno soldi per chi poi materialmente deve realizzarle. E questo qui, a questo punto, si tratta di infamità, nel senso che noi non vogliamo pagare con la vita per fare guadagnare a loro sempre più soldi. E l'infamità sta pure nelle parole di Laura Pausini o di Giovanotti, perché loro prendono il 90% dell'incasso complessivo, non solo dei biglietti del concerto, ma di tutte le volte che le loro canzoni passano per radio, degli sponsor e di tutto il resto. Mentre praticamente quando invece si tratta delle paghe nostre, sembra che stiamo trattando con dei pezzenti che invece hanno magari lo yacht, la villa e non fanno di certo la vita che facciamo noi. E stanno lì a lesinare su pochi euro, quando comunque alla fine ci viene richiesto invece di fare delle cose allucinanti. Questo è inaccettabile. È inaccettabile poi morire al lavoro per noi, cioè questa è una posizione inderogabile, dalla quale non ci possiamo muovere da un millimetro. Non è una questione dei soldi, questo l'avevamo detto pure nei confronti di quanto era successo a Trieste. Non si può morire per 5 euro l'ora, ma manco per 30. E non è una questione appunto di soldi quella che ci muove a organizzarci in questo momento, perché sarebbe veramente riduttivo, nonostante quella è anche una parte del discorso, perché a questo punto tanta gente anche tra di noi non ci crede che si possano cambiare le cose, perché lo stesso Matteo non era d'accordo con quello che stavamo facendo noi, va detta questa cosa, perché c'è passato all'assemblea, io l'ultima volta che ho visto in vita mia l'ho visto dentro l'assemblea nostra, però era scettico, perché è un modo di fare le cose talmente consolidato per chi organizza queste cose, che sembra quasi impossibile non fare in un modo del genere. Però evidentemente quando cominciamo a pagare con la vita dei nostri compagni di lavoro e amici, forse invece bisogna fermarsi. Noi abbiamo usato come slogan The show must go off, ovvero per noi qua si devono fermare, ma non si deve fermare Laura Pausini per 14 giorni o Giovanotti per 2 mesi e poi riprendono, si devono fermare tutti, perché bisogna fermarsi un attimo a riflettere su quello che sta succedendo. Da noi non si può fare uno sciopero, questo pure è una cosa che va detta. Noi non esistiamo nemmeno come categoria dei lavoratori, noi siamo estremamente precari, perché se alziamo la testa e diciamo qualcosa veniamo bruciati dal posto di lavoro immediatamente, perché non ti richiamano a lavorare. E non abbiamo nessuna forma di tutela se non quelle che appunto vogliamo cominciare a costruirci da soli. Infatti l'assemblea di ieri sì, è stata partecipata molto rispetto anche alle ultime che avevamo fatto. Noi ci stiamo vedendo tutti i martedì. E il discorso è che vanno costruite delle mobilitazioni in questo momento per portare all'attenzione di tutti quello che è il problema. E oltre al fatto che noi ci vediamo con una continuità, vorremmo anche riuscire a organizzare un'assemblea pubblica. Ieri c'erano anche i ragazzi del Teatro Valle e ci hanno dato la disponibilità del posto per organizzarla là e farla anche in modo che sia di richiamo nazionale, in modo che anche nelle altre città gli altri operai di questo settore si cominciano a muovere e a organizzarsi anche loro. E nei prossimi giorni penso che ci saranno delle mobilitazioni di fronte ai vari posti dove ci saranno i prossimi concerti, perché dobbiamo cominciare a esprimere all'inizio anche agli stessi altri operai che andranno a lavorare, ma anche alla gente che va a vedere il concerto, porgli anche un attimo il dubbio: ma tu sei sicuro che quel palco non ti possa crollare in testa pure a te? Perché questo è il problema. Allora, alcune, insomma, sono state dette tantissime, tantissime cose. Alcune chiaramente magari hanno colpito l'attenzione di chi ascolta, anche di chi è qui in studio. Com'è possibile, ad esempio, si è detto che chiaramente in questa fase c'è questa discrepanza, no? Cioè, praticamente i soldi che prendono i grandi artisti sono sempre di più, perché si arriva a budget che fanno addirittura Asso Musica, cioè l'ente padronale che organizza i live, ha dato proprio una quota, cioè dice chiaramente che il 90% dell'incasso, il 90% di un biglietto va all'artista e alla sua produzione. Forse servirebbe un attimo chiarire come nasce questo live. Innanzitutto, il mondo del lavoro del live è una miriade che passa dalle feste di paese, dove c'è tanto lavoro in nero e tanto sfruttamento, ai grandi concerti, dove c'è tanto sfruttamento anche in quello, anche nei grandi concertoni di Vasco Rossi che attirano 100.000 persone in uno stadio. Come funziona? L'artista di turno si rivolge all'ennesima agenzia, che è un'agenzia che organizza concerti, che poi subappalta le strutture, le luci, l'audio, qualsiasi impianto ai vari service, e i vari service si forniscono di personale tecnico da cooperative legate a questi servizi stessi. Quindi le cooperative in realtà servono a nascondere un cuneo fiscale migliore per chi ci guadagna, e in realtà negano tutta una serie di diritti ai lavoratori dello spettacolo. Quindi molte volte anche la paga potrebbe ingannare, nel senso che un tecnico nominalmente a giornata può prendere anche tanto, ma in realtà questo tanto viene nascosto, uno dal costo di quel lavoro, perché comunque hai bisogno di attrezzature che molte volte sono personali, eccetera, e sono costosissime, e dall'altro nascondono tutta una serie di diritti negati che non sono quantificabili economicamente, come ad esempio i contributi pensionistici, oppure l'infortunio, oppure la disoccupazione, è tutta una serie di diritti che normalmente più o meno vengono garantiti nel mondo del lavoro, ma che invece nell'ambito dello spettacolo sono molto più fumosi. In queste tournée che partono molte volte con 40-50 camion che devono entrare in due giorni, se va bene, dentro un palazzetto, con condizioni di lavoro ritmi sforsennati, perché comunque c'hai la data, a quell'ora il concerto deve essere tutto pronto affinché l'artista sale sul palco e fa il suo live. E, E questi ritmi poi, in questo mondo del lavoro poi le figure inquadrate sono principalmente due, cioè da una parte gli altamente professionati, cioè quelli che formalmente vengono chiamati tecnici, che magari si spostano insieme all'artista, e invece sui posti dove il concerto si ferma ha bisogno di manodopera meno specializzata, che è quella che viene chiamata stage hand, con questi termini in inglese che vengono mutuati dall'inglese, perché magari il lavoro nasce fondamentalmente negli ambienti, nei paesi anglosassoni. E da un punto di vista proprio lavorativo, le persone meno qualificate poi alla fine sono quelle in cui avviene il più risparmio, no? Il povero Francesco Pinna faceva parte di questa categoria, cioè dei ragazzi che per svoltare il lunario vengono e fanno questi lavori molte volte anche pesantissimi, come scaricare camion, spostare attrezzature eccetera, in cui si bada più alla quantità e non alla qualità professionale di questi ragazzi, quindi vengono pagati a ore con una cifra irrisoria e si ritrovano a lavorare in situazioni molte volte anche la prima volta in cui magari si tira su un tetto di svari metri quadri, che di svari peso, in momenti di lavoro veramente difficili e complicati. Io volevo chiedere, si è detto insomma che gli orari di lavoro, soprattutto quando insomma si è in tournée, soprattutto quando le operazioni di montaggio e smontaggio sono particolarmente gravose e pesanti, anche quindi durature, sebbene poi il tempo richiesto sia sempre più stretto, si arriva anche a lavorare, si è detto, dalle 12-13 ore in su. Cioè, com'è possibile che gli orari di lavoro possano essere così estesi? Ci dovrebbero essere, immagino, anche lì, insomma, delle normative, delle regole. In realtà non esiste nessuna normativa e regola che regolamenta questo ambiente, diciamo, se non le varie leggi mutuate da un punto di vista di sicurezza dall'edilizia, da altri punti di vista invece dai contratti invece che arrivano dal cinema o eccetera. In realtà quando un artista sceglie o una sua casa di produzione sceglie di fare 20 date in un mese, è normale che i ritmi di lavoro diventano allucinanti, perché comunque spostarsi nel territorio e garantire il concerto il giorno dopo, quello che viene chiamato il back to back, cioè oggi sei a Milano a fare il concerto, smonti stanotte e domani lo monti in un'altra città che se ti va bene vicino magari un 150 km, ma se ti va male sono anche 500 km e tu affronti il viaggio e dopo il montaggio di questa ennesima data. La stretta a livello diciamo fiscale, legislativo c'è pure stata negli ultimi anni, ma è stata molto molto viscida, se mi permettete questo termine, nel senso che dal punto di vista ad esempio della sicurezza c'è stata una bella stretta, nel senso che chi fa certi lavori deve eseguire alcuni corsi eccetera eccetera, ma questo serve soltanto per nascondere le responsabilità di chi è il committente del lavoro, cioè nel senso che per fare i lavori in alta quota come li faceva il nostro amico e compagno Matteo, cioè, c'è bisogno ormai di un corso professionale di lavori in altezza e su funi che costa diversi soldi, che quasi sempre un lavoratore si paga, e di tutta una serie di attrezzature che ti permettono di farlo, ma questo serve soltanto al committente affinché se succede un incidente chi paga è l'operaio che non ha eseguito magari che non era completamente a norma nelle sue attrezzature e nel suo modo di lavorare. E quindi se succede un incidente l'assicurazione non lo copre, ad esempio. Ma l'incidente può succedere pure perché magari stai 12 ore che stai lavorando, quindi ti dimentichi di agganciarti e un passo falso ti porta a cadere. Quindi questa stretta pure dal punto di vista di sicurezza è servita soltanto a parare le spalle ai committenti dei lavori, insomma. Infatti non vorremmo che pure tutto questo discorso si risolve poi nel fatto che noi siamo obbligati a metterci il caschetto e le scarpe antinfortunistiche, cosa che poi già facciamo, e mentre poi dopo non vengono appunto tenute in considerazione per la sicurezza cose un po' più importanti, ovvero se si può fare un evento del genere dentro a un palazzetto del genere. Però io, ecco, appunto attribuirei pure il problema che hai sollevato tu, chiedendo com'è possibile che si facciano questi orari, al fatto che noi lavoratori, in un certo senso, tramite appunto queste formule lavorative, tramite la cooperativa, non siamo dei lavoratori dipendenti, anche se temporanei, di quell'evento. Siamo dei lavoratori autonomi che fatturano un servizio, cioè noi forniamo dei servizi come se fossimo un non lo so, non degli operai, però professionisti. Siamo trattati da liberi professionisti, quando invece siamo comunque in quel momento estremamente dipendenti dalle esigenze che di chi ci commissiona il lavoro. Inoltre, il lavoro non ci viene commissionato direttamente dalle produzioni. Come funziona tutto il meccanismo? Il service, che è quello che si occupa dei materiali, dell'affitto e noleggio materiali, chiama anche il personale, però non è che chiama il personale che è dipendente del service, magari il responsabile poi del materiale è dipendente, uno o due saranno dipendenti del service, gli altri sono freelance. Questi freelance, ovvero tutti noi che non lavoriamo, non siamo assunti da nessuno, adoperiamo le cooperative per poter fatturare il lavoro. Queste cooperative prendono il 30-35% della nostra paga e lo trattengono, dicono, per pagare i contributi o per le spese che loro hanno a livello amministrativo. Bene, i contributi loro ce li pagano su una giornata che è segnata dall'Empals a 57 euro al giorno. Anche se io vado a lavorare per 180 euro a giornata o per 200 euro o di più, che come ha spiegato giustamente prima Antonello, non è che noi prendiamo queste paghe veramente, perché il 30% ci viene elevato dalla cooperativa e se lo intascano loro, perché spendono 17 euro per segnare una giornata lavorativa nostra all'Empals. In più ce lo danno dopo 3 mesi, quando praticamente vale meno, visto anche il periodo della crisi e dell'inflazione galoppante a cui siamo sottoposti tutti, non solo noi lavoratori dello spettacolo. E questo meccanismo delle cooperative non è un meccanismo che riguarda solo noi come lavoratori dello spettacolo, perché anche nell'editoria, anche gli infermieri, anche altre figure adoperano questo, devono adoperare questo escamotage che è voluto dalle aziende per sgravarsi dai costi del lavoro. Cioè praticamente noi siamo lavoratori autonomi e con contratti intermittenti per la che ci legano a quella cooperativa, che poi alla fine non rappresentano niente. Cioè quello che ci manca a noi quando andiamo a lavorare è un foglio di ingaggio, come si chiama poi nel settore nostro, perché c'è stata anche una proposta di legge fatta anni fa che diceva facciamo un contratto standard che viene per ogni singolo lavoro stipulato tra il datore del lavoro e la persona che poi lo esegue. E questo invece è stato accantonato, perché ovviamente non è interesse di chi gestisce le cooperative fare questa cosa. Secondo me è proprio un sistema che non funziona, perché non esistiamo in quanto categoria lavorativa, quindi saremmo assimilabili a altre categorie lavorative dello spettacolo, perché non vedo perché nel cinema, nella televisione e anche nel teatro, anche se lì pure le cose sono fatte sempre molto all'italiana, c'è stato comunque nel corso degli anni anche una battaglia forse che è stata vincente, perché alcune cose sono state ottenute. Cioè il concetto di straordinario come ore lavorative da noi non esiste, nel senso che secondo un service una giornata dura 12 ore, cioè la paga stabilita è per quelle ore, per un altro dura 10, per un altro quanto dura, quando lavori in nero, e tante volte si lavora in nero soprattutto nei piccoli e medi eventi, te prendi 100 euro cash a fine giornata e se hai lavorato 16 ore è uguale che se ne avevi lavorate 8. Cioè questo è il problema fondamentalmente, che non esiste nemmeno il riconoscimento del fatto che noi siamo lavoratori che in quel momento sono dipendenti da qualcuno. perché al massimo arriva un foglio, un fax alla cooperativa di una richiesta servizi, che è l'unico modo che poi la cooperativa ha di avvalersi sul service che ha commissionato il lavoro per almeno avere un riscontro economico di quella fattura che viene poi emessa, ma che nemmeno è una cosa che fanno tutti. Quindi molto spesso uno, cioè, si vive pure a condizione che va al lavoro e sembra che sta a rubare, cioè nel senso che non, che sta lì, che se viene in controllo dice: ma te perché stai qua? Cioè, dove sta scritto che te dovresti stare a lavorare in quel momento? Cioè, questo è poi il problema fondamentale, secondo me, di tutto quanto. Comunque, un attimo che mandiamo un attimo un breve stacco musicale. Allora, abbiamo interrotto perché abbiamo ricevuto una telefonata, la prendiamo e ti diamo la voce. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti i compagni che stanno in studio, insomma, un abbraccio, insomma, perché capisco la difficoltà anche di intervenire in questo momento. E, anzi, se potete dire due parole anche sulla mamma dopo di Matteo, come sta, se sta ancora giù, eccetera, far sapere qualcosa, probabilmente c'è in ascolto chi gli farebbe anche piacere. Detto questo, insomma, sono molto interessanti le cose che dicevate. È un mondo che non si conosce, è tenuto molto all'oscuro, credo volutamente, insomma. E non so, io vi pongo delle domande così, quasi provocandovi per certi aspetti, perché così ho avuto la sensazione, anche dopo l'altro incidente accaduto al concerto di Jovanotti e da alcune telefonate venute in radio, che c'è una certa reticenza anche da, non dico da parte vostra che siete lì, da parte delle categorie che lavorano proprio al montaggio dei palchi, soprattutto quelli più specializzati, forse un po' per credo per tema di ritorsioni, perché nell'ambiente credo si sappiano rapidamente certe cose, quindi insomma c'è sempre una certa, se non paura, perlomeno insomma una certa attenzione a doversi esporre, a fare determinate rivendicazioni, eccetera. E dall'altra però mi è sembrato pure che c'è quasi una mitologia per alcuni, no, di fare certi lavori, perché diciamo è un po' figo, è un lavoro figo che magari piace, qualcuno se lo rivendica proprio, dice: a me piace così così, eccetera. Quindi questo era come domanda, insomma, per riportare le cose, insomma, alla loro realtà. E poi sul piano delle difficoltà proprio di lavoro che incontrate, io capisco perfettamente questa vostra duplice veste di dipendenti nella cooperativa, però praticamente dei lavoratori quasi a fattura, a partita IVA, liberi professionisti, eccetera, per cui alla fine proprio questo tipo di difficoltà va a aumentare la possibilità che la catena di comando e di subappalto fino a la maggior ditta responsabile diventa talmente difficile da inseguire che poi, come in altre situazioni, insomma, non ci si riesce. Però insomma il momento credo che sia veramente grave, l'avete detto, due morti in sia pure con dinamiche tecniche forse diverse, però due morti in pochi mesi sono veramente tanti. Io credo che questo è il momento, insomma, che voi possiate e in qualche modo dobbiate pure fare dei passi, spingere, magari sostenuti, spero, e ne so anche convinto, da una parte del movimento, perlomeno da quella più sensibile, perché qui sto sistema, sto star system, credo che vada messo sotto accusa, insomma. È vero che lì che c'è una catena di comando, di subappalti, eccetera eccetera, però alla fine io da estraneo vedo che il concerto è di Jovanotti, il concerto è di Laura Pausini, il concerto è di Vasco Rossi o chi per lui, quindi bisogna chiamarli e inchiodarli a delle responsabilità che poi se ne facciano carico loro, oltre che, insomma, come dicevate giustamente, i tanti soldi che prendono, insomma, credo che gli consentano ampi margini, però insomma che se ne facciano carico loro, sono loro quelli con i nomi a caratteri cubitali sui quotidiani, sulla stampa, sui giornali specializzati dei canzoni, eccetera, eccetera, eccetera, tutto sto mondo che poi, insomma, se porta dietro, lo sapete meglio di me, un sacco di altre cose, non è solo la canzone così. Questi denunciando pure questa frenesia di fare dei super palchi, conta più le luci, lo spettacolo, la kermesse, tutto quanto, che la canzone in sé, probabilmente, forse perché le canzoni sono pure scadute di qualità, io non lo so, non sono esperto, ma magari ci stanno pure questi meccanismi, e tutto questo non lo potete pagare voi, non lo possono pagare i lavoratori, insomma, no? Questo trita tutto che se mangia veramente, insomma, anche la vita dei giovani ragazzi. E poi l'ultima cosa, non si può lavorare di notte, compà. Qui la prima cosa che fece la Comune di Parigi è abolire il lavoro notturno, e centinaia di lotte del movimento operaio sono state fatte per abolirlo il lavoro notturno, non per accettarlo, e quindi questo pure deve essere un punto credo rigido, insomma, no? Così come tutti i ritmi, questi spostamenti soggetti a oggi stai qua, domani stai là, rimonta, smonta, eccetera, eccetera, e come gli fa uno, magari si deve pure fare le pere di qualche cosa, se no non gliela fa più, insomma. Ecco, che venga fuori sta dinamica, che venga fuori sto mondo, perché poi c'è campa gente che insomma voi prestate un'opera, chi c'è campa proprio largamente sopra non fa assolutamente una minchia, insomma, ecco, quindi che ne siano chiare le responsabilità, e che chi ce le deve avere se le assuma, insomma. Io credo che il momento sia giusto, insomma, per fare alcuni passi e farli venire fuori sti buboni. Vabbè, un abbraccio a tutti, vi ringrazio. Ciao, grazie. Ciao. Sì, effettivamente il compagno ha messo l'accento su due cose molto interessanti. Da un punto di vista, il primo punto, effettivamente è vero, cioè chi fa questo lavoro lo fa perché è appassionato, cioè, perché ti piace magari stare sopra un palco, perché ti piace il live, perché ti piace vedere la gente che si diverte durante un concerto. E questo molte volte ci rende molto più ricattabili, no? Dal punto di vista lavorativo, nel senso che stai facendo il lavoro che ti piace, tra virgolette, insomma, quanto un lavoro può essere piacevole, si chiamerebbe hobby. Dall'altro però quindi c'è sta spinta affinché il tuo lavoro sia portato anche a estreme conseguenze, quindi no, queste megastrutture che vengono montate, è quasi un invito a te stesso a riuscire a farle queste cose. Come una sfida. Come una sfida, sì. Un altro punto di vista è pure difficilmente un lavoro in cui l'aggregabilità è molto dilatata nel tempo, nel senso che oggi lavori con una squadra, domani lavori con un'altra, quindi è pure difficile costruire momenti di discussione, di scambio e di socialità, insomma, diciamo, anche delle lotte, vogliamo dire. Il secondo punto in cui giustamente metteva l'appunto è l'ipocrisia degli artisti, appunto, in cui sono i primi a mandare su Twitter, Facebook i loro cordogli, sempre commossi, sempre partecipi, si sentono sempre partecipi a una grande famiglia, poi magari loro dormono in un albergo da 7 stelle e noi invece magari dormiamo in un albergo che non è proprio così. Però questi artisti non si mettono mai il problema che il loro cachet è altissimo, e appunto se in un biglietto di 40 euro 36 euro vanno all'artista e 4 euro vanno al lavoro, molto probabilmente quelle 4 euro non garantiscono un lavoro in cui le condizioni di lavoro siano adeguate, e quindi le cose vengono anche montate in maniera corretta e adeguata, perché i ritmi vengono, vengono appunto estremamente compressi proprio perché i costi sono alti e il guadagno invece ce l'ha tutto l'artista e le sue agenzie, non scordiamoci. Io volevo dire, no, ma in questa situazione in cui si riflettono a un tempo, diciamo, fascinazione e sfida, insomma, nel fare questo lavoro, e dall'altra anche meccanismi paurosi di soggiogazione vera e propria e ricattabilità estrema, all'interno, diciamo, di questi meccanismi, provare a mettersi di traverso, che cosa implica? È capitato mai, si è mai verificato che qualcuno abbia ad esempio fatto presente: guarda, siamo tutti stanchi, abbiamo lavorato per 12 ore, sta struttura per smontarla ce ne vogliono altre 4-5, forse è meglio fermasse. È mai successo? Qualcuno ha posto il problema? Ti posso fare un esempio pratico: al concerto, mi sembra, dei Depeche Mode o di Ligabue, adesso non lo ricordo, nel 2006 allo Stadio Olimpico, dopo 12 ore che stavamo lì a montare il ferro, il layer, abbiamo fatto presente che se ne volevamo andare a casa, e dalle 8 di mattina alle 8 di sera a luglio sotto al sole, e ci hanno detto che non ci avrebbero pagato la giornata se non stavamo un'altra ora là, perché dovevamo portare a termine la mission di quel giorno, che era fare quel muro di layer lì. E qualcuno è sceso dal ferro e non ha fatto niente quell'ora, altri sono risaliti e hanno fatto quello che dovevano fare. Questo perché, non perché, cioè, da una parte sto ricatto che così, diciamo, di pancia uno potrebbe dire: mi rispondi una cosa del genere, rimango qua tutta la notte, però ti smonto tutto e il giorno dopo ti ricominciare da capo. Però questa non è una coscienza diffusa e condivisa, perché, come dicevamo prima, non c'è stato mai modo di riflettere a mente lucida su queste cose al di fuori del lavoro. Molto spesso ci siamo lamentati delle condizioni, ma rimangono chiacchiere. Molto spesso non c'è stata una capacità organizzativa, non c'è dialogo tra i lavoratori stessi, c'è stata una competizione che è sulla quale soffiano pure gli stessi datori di lavoro. Molto spesso io e te che stiamo facendo la stessa mansione non prendiamo gli stessi soldi perché gli accordi sono individuali. Questo è il problema, la frammentarietà estrema di questo lavoro. E allora noi infatti stiamo cercando proprio di uscire da questa dinamica, facendo una riunione fissa degli operai dello spettacolo, nella quale possono partecipare il facchino che prende 6 euro l'ora, il tecnico delle luci che prende un tot, il fonico che prende un altro tot, il rigger che ne prende un altro, o lo scaff che prende, ognuno con le sue condizioni. Però dobbiamo in certo qual modo condividere prima i discorsi, appunto, non solo economici di assurdità del lavoro, e poi prendere anche in considerazione il fatto che esistiamo come categoria generale di lavoratori che non ha alcuna tutela. Quindi molto spesso, appunto, i problemi si risolvono proprio in un nulla di fatto, perché rimangono le lamentele o le chiacchiere dei rompicoglioni che poi piano piano vengono anche esclusi dal lavoro. Cioè, questo è il problema, che se uno non si muove compattamente non ottiene niente. Però ecco, questo è forse quello che piano piano sta entrando nella coscienza di molte persone, anche perché è vero il discorso che questo lavoro ci piace, perché non nego neanche io che mi piace anche fare delle cose che possono essere considerate estreme e tutto. Però una cosa è che, appunto, come è stato detto prima, uno non lo fa per hobby, però alla fine lo fa è un lavoro vero. E molto spesso a me mi è stato detto proprio in faccia da alcuni delle produzioni: ma questo mica è un lavoro vero. Ma come non è un lavoro vero? Cioè, c'è gente che ci guadagna un botto di soldi con questo lavoro che facciamo noi, grazie al lavoro che facciamo noi. Poi noi siamo persone che stiamo là per risolvere i problemi, e quindi al di là di tutto, come tecnici facciamo di tutto per risolvere il problema. Però fondamentalmente a noi della Pausini non ce ne frega un cazzo. Cioè, a me il concerto dei Venditti, per il quale ho fatto la tournée, mi faceva schifo. Cioè, parliamoci chiaro, non è che a noi non siamo coinvolti nel processo creativo della cosa, noi siamo coinvolti nel processo tecnico, e è nostro compito fare in modo che tutto funzioni, indipendentemente dalla merda che loro poi dopo mettono sul palco. E questo pure è una cosa, che c'è questa estrema distinzione tra noi che facciamo la cosa e chi l'ha pensata, e non c'è dialogo tra questi due mondi, cioè nel senso che noi stiamo là solo per eseguire e lo facciamo al meglio delle nostre capacità, affrontando la sfida anche, cioè è vero che ci piace a tutti fare anche una vita hardcore, no? Per usare un termine magari per farsi capire bene, cioè, però alla fine non ce va di morire al lavoro, perché ce ne passa tra questo e la cosa della passione. L'ha detta Giovanotti, ha detto non ci sta sfruttamento perché quello è pagato secondo i termini contrattuali. Ecco, a noi ci sembra che 6,50 euro come minimo sindacale sia una stronzata, fa schifo, cioè non so cifre accettabili. 53 euro per una giornata di lavoro che ci segna la cooperativa è una schifezza, perché non corrisponde neanche alla realtà. Senti, ti fermo un attimo Davide, perché c'è anche un compagno che è in diretta e che vuole segnalare una questione, una cosa. Salve a tutti e tutte, sono Luca del coordinamento di Lotta per la Casa. Non vi tolgo tanto tempo, è semplicemente che sentendo la trasmissione mi veniva in mente forte l'idea di lanciarvi, però insomma, facendolo in diretta via radio, l'appello a se vi va anche a ragionare di queste cose in un'assemblea che stiamo organizzando per la settimana prossima, per martedì 13 marzo al Volturno di pomeriggio alle 18, e che ragiona sui temi della cultura, nel senso che siamo partiti da un'emergenza che era quella degli sgombri del Volturno, del cinema Preneste, questi rischi, facendo un ragionamento che invece sta collegando diverse esperienze sia in termini di battaglia contro la speculazione attorno a questi spazi, sia facendo un ragionamento attorno alla questione della cultura, che non sia una cosa, come dire, che divida compartimenti stagni, chi ne fruisce e invece dovrebbe anche partecipare, quindi i cittadini, chi fa cultura indipendente, auto-organizzata, e anche tutto un discorso sul lavoro, la questione del reddito e dentro anche la specificità dei mestieri dello spettacolo. E quindi niente, un appello a venire anche per allargare i ragionamenti che state facendo e magari alimentare in maniera molto ampia delle campagne, delle risposte adeguate, insomma, a tutto quello che siamo costretti a subire. Va bene, grazie, ciao Luca. Ciao. Allora, insomma, ormai sono le 13:05, quindi insomma dobbiamo anche chiudere questo spazio, anche se insomma qualche minuto ancora ce lo possiamo prendere, perché l'argomento richiede anche insomma un po' di tempo per raffinare meglio i ragionamenti. Tutto sommato, alla fine quello che si evince, anche se c'è una specificità di questo settore chiaramente, lo si capisce bene sentendo insomma la voce di chi ci lavora, però poi alla fine al pettine i nodi che vengono fuori sono pressoché i medesimi insomma anche di altri settori, e sono quelli che incidono in misura maggiore sulle morti sul lavoro, e cioè outsourcing, esternalizzazione, rapporti di lavoro subordinati mascherati da rapporti di lavoro autonomo, la precarietà lavorativa, chiaramente poi quando c'è anche il nero di mezzo tutto ciò insomma si concentra e si approfondisce ancora di più. Ora, quando si parla di morti sul lavoro, praticamente queste questioni non vengono mai tirate fuori, perché si parla quasi sempre di incentivare i controlli, rafforzare gli ispettorati, rafforzare diciamo la segnalazione di quelle mansioni che alla fine insomma sono quelle più semplici da praticare, da mettere operativamente in atto, come il caschetto, le scarpe antinfortunistiche, un certo tipo di abbigliamento. Ma alla fine è vero, tutto ciò è certamente necessario, non a caso c'è una normativa sul lavoro insomma che fino a poco tempo fa da questo punto di vista funzionava anche, no? La famosa 626. Ma alla fine non è questo il problema, non sono questi i veri le vere diciamo cause che portano appunto a quello che è successo a Francesco, a Matteo o anche a tanti altri incidenti, perché poi insomma diciamo anche questo, gli incidenti ce ne stanno tantissimi all'interno di che sono nascosti. Tra l'altro appunto come diciamo prima, insomma c'è una caratterizzazione fortemente giovanile, anche se poi ci sono anche persone che hanno un'età un po' più avanzata, però sono molti ragazzi pischelli quelli che ci lavorano e quindi è facile anche no conoscerne tanti di sti ragazzi. Chi di noi insomma non ha conosciuto persone, ragazzi che hanno avuto anche un piccolo o un grosso incidente? So tantissimi, a me mi vengono in mente svariati casi e immagino chi sta qui ce n'ha altri ancora da raccontare, quindi insomma ecco, fino adesso forse tutto questo lo si è messo sotto il tappeto, anche forse per quel discorso che facevamo prima, insomma una certa apatia magari nello sviluppare percorsi di lotta, e dall'altra parte anche il rispecchiamento in un lavoro che certamente può dare anche delle soddisfazioni, ma non sono certo quelle che possono poi no far come dire arrivare ad una percezione totalmente distorta poi di quello che è il proprio ruolo, perché poi no è proprio questa la questione, no? Sì, sicuramente. No, io un'ultima cosa che volevo aggiungere è comunque chiamare anche alle responsabilità di chi ancora continua a firmare deroghe su posti dove vengono fatti concerti live che attirano 4.000, 5.000, 15.000 persone, e questi posti non sono in regola dal punto di vista di sicurezza, di normative anche più banali, ma che il solito prefetto mette una firma e che per quella sera è come se tutto funzionasse, e se funziona va tutto bene, va tutto bene. Poi quando scappa il morto naturalmente è un fuggi dalle responsabilità come sempre, e la cosa più semplice è attaccare la non professionalità di chi ci lavora, l'errore umano eccetera eccetera, e mai appunto come dicevi tu andare a scavare in profondità le condizioni lavorative, i ritmi, le condizioni salariali, sta finta partita IVA che molta gente c'ha, insomma, invece che nasconde appunto lavori subordinati, no? Un lavoro subordinato molte volte è ricattabile, perché se tu in prima persona essere richiamato, quindi il rapporto molte volte con la produzione o col tuo datore di lavoro è proprio personale, in quanto alla chiamata, quella tournée che vogliono te, e quindi anche per questo sei più soggetto alla ricattabilità, insomma. E va bene, allora noi rilanciamo l'appuntamento di assemblea che sta diventando praticamente un appuntamento fisso, sperando appunto che questa esperienza sia sempre più partecipata. Sicuramente insomma ecco ci farebbe davvero piacere se in questi giorni, laddove si creassero i presupposti per organizzare delle iniziative in modo da denunciare in modo forte quanto sta accadendo in questo settore lavorativo, ecco, che chi assiste ai concerti, chi magari infila al botteghino e si trovi a notare, a vedere insomma che ci sono gli operai magari con uno striscione aperto, con megafono a di qualcosa, ecco, ci farebbe piacere insomma che anche gli astanti, i cosiddetti spettatori, una volta tanto insomma recitassero un ruolo diverso, o magari davvero insomma diventando per poco un po' più protagonisti dell'evento a cui partecipano, magari solidarizzando con i lavoratori presenti. Questo sarebbe certamente un passo in avanti, e magari insomma perché no lo sciopero, che non si può attuare all'interno, o comunque che è molto difficile, perché poi dire che proprio non si può attuare insomma manco mi sembra opportuno, ma che è molto difficile attuare all'interno di questo settore, possa avvantaggiarsi quantomeno insomma della solidarietà da parte di chi vive con passione la musica e i concerti. Sono le 13:10, tra poco il giornale radio, e saluto i compagni insomma che sono venuti qui a trovarci quest'oggi. Ciao a tutti. Ciao.